bip del microfono ma non la voce. Il QRM alto è Santiago 7, quindi non ti sento, pio pio. Sì, Mario? Sera Mario, adesso sì, come hai fatto l'ultimo passaggio ho passato un po' lo squelce e sono riuscito a sentirti. Com'è a Porto Torres là la giornata? Comunque da questa parte Carlo, c'ho un po' di QRM e diciamo va e viene un po' il segnale, capito Mario? Ci sentiamo in condizioni migliori sicuramente quando sarei a casa. Comunque l'ultimo passaggio qua a Santiago 7, Radio 4, però vicino al QRM, quindi faccio fatica. Magari se sei in posizione migliore più avanti, vediamo un po'. Ciao Mario, buona serata, buona serata. Avanti, avanti, avanti. CQ canale 10, c'è qualcuno qua? CQ canale 10. Ora, ora. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Ora. CQ canale 10. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Pronti Nazarino, ciao, buonasera, dimmi tutto, Marco Scorpio. Ciao Marco, ti stavo ascoltando di là. Ti dovevo telefonare perché non riesco a fare una cosa, già te lo dico al telefono. Sì, allora guarda, sto quasi per fermarmi. Adesso la spengo perché l'ho collegata tutta un alimentatore, perché quel Ma la metafora dei cinesi non vale un tiffero. Ehi, gli avvalgo, ma sta a prenderli buoni, gli avvalgo. Adesso sto usando il coso, quello da 50 ampere, della Proxer. Ehi, sono ancora vecchio io. Pappa, sì. E l'ultima di campagna, vedi, mamma mia, che faccio un mal di china. Non fa vedere la china, per piacere, voglio tunicare due muri. Fuori, guarda, lascia perdere. Fanno male le gambe, la schiena, le braccia, i gomiti, le ginocchia, tutto mi fate male. Sì, mi stavo tagliando quel pezzo di su, quel pezzo d'erba dove c'era la passerella, poi ho pulito tutto il recinto del cane, cata, guarda, non ne posso più, faccio un bardichino così, ma adesso mi ha preso un voltare. Sì, anche io mi ho preso a pranzo, adesso mi ha preso un altro notte. Uia. Non è che posso sempre chiamare in muratori, qualcosa me lo può fare anche io, se no, non ci ho risolto anche. Quindi già non sono finito, ma comunque mettono già due muretti, fratacciali, adesso domani si asciuga la tinta. Si va bene, no? Fra io non ne ho erba. La pianta è tutta fuori esternamente, ancora erba bassa bassa, la farò prossimo mese, vediamo se si solleva un po', ma internamente solo raserba, solo prato e niente erba. E io gli ho detto, sono una tagliatina, l'ho fatta accorta, qui ci passa il tratturino, c'è quei tratturini, due cavalli e mezzo, quando al prossimo mese gli passo quello. Quello già, quello serve, quello dice tutto, mastica, ricca, va bene. Io per quello sono a posto, ma c'è un sacco di cose da fare, poi dentro c'è l'aria a casa, cazzo, dici, mamma mia, cosa mi ha fatto qua? Mi ha fatto saltare tutti i mobili, pulire dietro, cazzo, un casino. Fatto un attimo, mi sono in camera sua, c'ho tutta la difende, mi sono fermato poco fa, anzi, adesso mi ho messo la roba al forno, devo controllarmi pulisco, non basta che ce l'ha giù fatto. Ecco, a te tocca, purtroppo. Cosa ci vuoi fare? E così. Io lo so fa, non voglio più avere. Sto facendo adesso queste giornate belle, perché poi c'è l'estate, ti metti a fare, sai, cazzo, non ti godi l'estate. L'anno scorso, mi ricordo, sempre venne, mi avevo ricciato, non so se dal vinito, tutto il muro di recensione, tu mi le mano, mi tutto, due lì al rullo in mano, l'estate, un cardo da morire, invece non lo sto facendo adesso, piano piano, per queste cose, e poi così l'estate mi riposo veramente, se no è un casino. Sono salito poco fa, mi ha fatto mezz'ora di lezione, adesso ha finito, ha detto adesso me ne metto, entro un po' in radio a vedere se c'è qualcuno, faccio la chiacchierata, dopo un po' di TV e a letto, e cosa vuoi qua? Con questo terrestre dice che la giovedì cambia di nuovo. Lo so, la giovedì cambia sì, quindi per quello mi sto facendo queste cose. Ho iniziato i pilastri della veranda, un attimo ho passato il bianco sotto la veranda, e non tocca acqua, quindi già va bene. Un sacco di cose sto facendo fra, ma volevano fatte, capite? Volevano fatte. No, ho letto, una partita, stasera c'è la Juventus Coppa Italia, mi guardo la partita, non so se ce n'è una anche alle 18, boh, ma accendo a vedere là. Ci aggiorniamo dopo fra, intanto ti devo lasciare perché devo controllare il forno, ok? Già è tutto acceso qua dopo. Sì, guarda, no prove, te lo lascio acceso, dai, mi faccio alcune cosette qua, computer. Già sono qua. Ok, vabbù, dai, ci vediamo dopo. Eia, a dopo fra, ciao, sopra il ciao. Ciao, ho contraccambiato anche la parte sua, saluta in casa anche la parte sua, mi ha detto. Ok, saluta Anna pure. Grazie. Finisco di fare questo aggiornamento al computer, così sono a posto. E quello vuole fare. Ci aggiorniamo dopo, Franco Riccio. Ciao, Claccia. mi batte. Hola, hola, hola, hola. Hola. Attenzione 10, K. Attenzione, K, K, K. Chi è avanti? Tanto lo stavi chiamando? Ehi, K, vai. Ehi, ehi, non problemi, tranquillo. Ti dirà Zuzzo ed è pronto a farci domani. Vai tranquillo, sereno. Dormi sereno tu, non nulla. Ah, ma fini che ti ha fatto qualche cosa a te? Cosa? Ma fini che ti ha già fatto i tuoi difetti di qualche radio. Ehi, Anto, una bizzetta ne fanno. Però quelli sono trattabili i difetti, capito? È un ammalaggio, sì. E cosa? No, c'ho le vue, le uaccesse. Ho detto, quei difettucci lì, è una cazzata, no, non è niente, non ti preoccupare. Cioè, domani mattina passo, me la prendo, te la faccio io. Una resistenza, no? Sì, c'hanno delle piccole resistenze lì sul display, a me me l'aveva cambiata Fabrizio. Allora durato un bel po' e poi mi si era bruciato lo display. Ma no, ripeto, sono stronzato. Rispetto a quei difetti che fanno altre radio, sono stronzato, non ti preoccupare. Cappa, no, guarda, c'ho l'amplificatore spento. Quanto arrivo il segnale? Niente, 9:10, sì, un ottimo segnale con il watt della radio, stai scherzando. E così com'è? Qui c'è 9:15. Cappa, sto... Tutta la potenza della radio? Intorno ai 25 watt. 9:15, anche l'ottimo segnale. Non attacchi, sì, oltre 9:20. Va bene. Gappa, si sta gammasci un poco. Non la voglio dire, c'è la radio. Hola. Hola, hola. E già va bene. Sì, non voglio va bene. Non ho sentito Luca, boh. Non so se è a casa o se è dalla ragazza. Non so. Io devo andare a mangiare, Antonio, se ci sei ci sentiamo dopo, ok? Ricordati di portare quella roba al lavoro, poi già passi domani mattina. Appa, ma non passi uno di chi si fuggibili, no, chi non si brucia mai. No, dentro no, è nel cavetto di alimentazione il fuggibile. Dentro no, non lo so cos'è, non ti preoccupare, Antonio, così se lo avessi io, lui. Se vuoi più aprire la radio e acciamo lei di altro. E così come ti so quando andi? È una strada in varia. Un bel forte. 9:25, quasi 9:30, sì. Sei un po' un po' allucinante, sì. Cazzo, ho visto che hanno fatto una nuova ringo, l'hanno fatto. Oh, ma simile a quella che c'hai tu? Quella mi piace, c'ha le viti, c'ha. Ah, quindi è un modello diverso, là. L'hanno robustita, l'hanno. Perché no? C'è una buona antenna tua, alla fin fine questa ti sta dando delle ottime soddisfazioni. Se metti quella uguale a quella lì che va un po' meglio, costa meno e c'hai un'antenna più performante. Boh. Mica c'hai me. Guarda che tu goccia, ma 60 euro goccia. Beh, 60 euro però se hai detto che è modificata è meglio, no, si può anche fare. Ma gli metti gira, adesso vediamo. Cosa vuoi ti faccia? E allora c'è il tuo vicino Gianni Vero, ma non c'è di una frutti. Va bene, vado a pappare, ci sentiamo dopo. Ehi, ciao, ci sentiamo. Lamentati che c'è commissione, va domani. Non ti preoccupare, te lo porto. Bravo, portalo. Già, prendiamo arancio domani mattina. Mi soccorre, allora c'è mamma babbo, ma non fa tanti cose. Vuoi andare anche in corso un vicco? Io presto non posso passare, capito? Non posso. posso passare, solo a lavoro a prenderla, perché presto la macchina ce l'ha Ilaria, capito? Se non sei passato a prenderla direttamente presto a casa tua. Ma poi in capo c'è che già li sei dimandato. Infatti. Va bene, dai, tu fai così poi domani mattina andiamo a raggiungere, al limite domani sera te la porto, quando è pronta te la porto io. Gabba, gabba. Ehi, ciao, ciao, ciao. Sì, se ne va la sua. Ehi, Luca, tu sei? Ciao, tu, aspetta, lascia la pena di questo. Ehi, ok, non ti preoccupare. Cazzo te va a cagare in giro, cazzo. Un arroba tra un guglione, cazzo. Questa scala la dice. Questa scala di dato. Cosa vai, Anto? Cosa fai con tu con l'archivio, Anto? Con un'uomo da cuore da terra, ragazzi. Ma come te, io qui lo cuore da terra con un'uomo. No, perché c'è un rosmetro che ti ha attaccato, che è tutto canto broscio. Quello che ho comprato a usare è buono, ma chi c'è tutto canto broscio, eh? Se vengono in fulminato, ti vengono. Dai che lo cambio, va. Non mi piace. Ah, io ho preso l'SX 200, è un bombò. Ho pagato 90, 100 euro. Aspetta che lo cambio, non mi piace questa cosa. Cosa è successo a tu? Cosa? Ma che mi hai venduto, ma te si è piegato un po'. L'ho riadrizzato, messa a due pizze l'antenna, no? Quella di su. L'ho riadrizzata, adesso ho portato il pezzo a casa, lo taglio domani. Con la moneta, corto, e lo riaggancio di nuovo. Gappa gappa, aspetta un attimo. Ah, SVR. Eccolo qua. Ecco qua. Adesso va bene. Non si vede. Un po' di tempo. Andiamo a te chi fai. E quindi cosa hai fatto? Luca. Luca. Stavo mettendo quel mandarino e fa schifo, ma non è aspro. Ho detto che questa piastra in acciaio la faccio un po' più corta, capito? La ripiazzo così e lo stilo si è un po' piegato, ma non me ne frega niente. La ripiazzo come la prima. Vabbè, se lo rimetti come prima non c'è niente. No. Magari sabato, se ti posso vediamo là. Vabbè, ti fai un salto. Ma non sei pensato una bicicletta? Poco. Batteria non dura. No, la cosa da poco la faccio pure, c'è la biglietta. Comunque, sono la piazza per stare alla meglio, capito? Poi torno, faccio giù, deve essere in due. Bene, sabato sono da te, scendiamo, vengo da te. Non vedi, Matteo stai lavorando però. Beh, la manzana sì. Già, vabbè. Perciò... Non è sabato, sarà domenica. Fermo domenica. No, non è un gatto più. Se la bide in culo. Ubuntu. Intanto è già, intanto è più nulla. Sto smontata. La buona è a posto, già non si è di nulla, non si preoccupava. Già è stata capito, ma non è giustizia il tuo problema, purtroppo. Sì. No, se vai a un Ducato la sappa attaccata come ti deve essere attaccata non è lo stesso, no. Non ti preoccupare, chissà cosa si infletteva troppo. E oggi basta la moletta che è tutta finito, ma non farà massa bene la moletta del coso nel braccio dello stendicchio. Lea, basta, basta. Massa di cosa? Cosa tu? Massa di cosa? Massa tu, non arriva la massa antenna. No, mi sei da balcone. Ma non ha bisogno di massa, andava, vabbè. Ma penso di no, non lo so, ma penso di no. E mi sto usando questo che mi è partito il chemoto, ma già lo risolviamo. Ma cosa va? Sta sentibile display. Che cazzo, dopo che va tu già a po'. Vabbè, no, una frontata, è una resistenza. Ah, ho capito. Andava, che cazzo tu. Io te l'ho detto, ho detto che aveva problemi, ma già via Ghigio invece. Non ho capito. Cosa c'aveva il 440? Perché questo è meglio. Ho capito, il 440 l'aveva. Tutta. Ah, fatto uno scambio. Vabbè. Già, usai. Una frontata, Domani me lo sistema e a posto. Ah, poi comunque non ce ne sono problemi, già lo sai, va. Non c'è problema. Queste rate sono belle, però Antu, è un casino. Sono già andato di balle. Io sono lì per lì, ma ci vuole sempre la manutenzione con gli anni, eh. Cappa. Ah, ma già va bene, cosa? È solo una cavolata, è successa e basta. Ma già si può risolvere. Sono cavolate, sono. Senti, se me la ghizza. A ghizza. Mi sei rimasto di bere di culo. Che c'ha quella là. Oh, dimmi un sito, quel sito che mi avevi detto per quanto riguarda il veicolare, che costava una cazzata. La Mascar, è il sito, non lo so, bisogna adesso il sito della Mascar. Mascar, ciao, Vito, l'offerta dei veicolari da 60 euro in su, 64, 65 euro, una cosa del genere, bellini, va bene, mi andavano bene. Mascar con la K o la C? Con la C mi sembra, no, con la C, Mascar. Mascar.com, cosa ti per le telecomunicazioni? Via. Con questo bene arrivo, questo è quello che ho sempre usato quando non avevo altro, capito? E qua mi viene più comodo. 910, Antò, sempre 910, radio super 5, io sto andando a mangiare. Controlla lui, se no ti do qualche info io. Allora, c'è PAC, là, c'è l'ESU FTM 600R269. No, lascia, quelli sono troppo alti per fare il lavoro che fai tu, ce n'è anche a 70 euro. Sono dei veicolari piccoli che vanno molto bene. E io che non li becco veicolari minoretti. Tu vedi la tradico. Vai, adesso lo quando, vedi. Ma tu vuoi che fai prima? No, sto ascoltando, ma torno a mangiare, qui c'è la partita, Luce. Che partita c'è? C'è la Coppa Italia oggi, domani gioca l'Inter, oggi gioca Juventus-Sampdoria, domani gioca l'Inter, dopodomani gioca il Milan. Comunque, allora, se non sbaglio c'ha l'Inter tre partite da recuperare, o due? Due. Se vince quelle due, vince il campionato, ma la deve vincere. Se no il Milan ce ne va troppo, capito? Ascoltate, ma chi è che me lo può controllare? Io c'ho un rosmetro che non mi funziona tanto bene. C'è qualcuno che me lo può controllare? Perché questo che ho io, questo che ho comprato a Fusaro, questo funziona una meraviglia. L'altro non funziona bene, chi che me lo potrebbe controllare? Comunque qua c'è l'MB più 5. Cazzo, su eBay costa oltre 100 euro, qua 78 euro costa. Cosa? MB più 5. Quanto costa? 78. 70 devo quasi pagarmi. Fusaro, ma 60 me la posso pagare. E c'è 60 il più 4. Dai, vado a mangiare a dopo. Allora come le biglia la Sassari. Io gli lascio i soldi ogni volta, compro le antenne TV, insomma è tutto aumentato, ma vabbè, adesso non lo faccio lo sconto, cosa adesso? chilometro, ma ne preferite, ma è roba usata, sì, questa per fare l'ascolto, questo cazzo mi sono dimenticato la... quello del portatilino acceso, e se si è caricata la batteria, e volevo prendere un veicolare, adesso vediamo, va. Ah, per fare l'ascolto, mica per trasmettere, per fare l'ascolto e basta. Così è. Già andava bene, già funzionava e avara. Stavo dicendo loro, se ci batte da questo apparecchio, c'è qualcosa attaccato. Ho visto che hanno fatto la nuova ringo, hanno fatto, modificata. Come va? Cazzo, come l'ha piegata quella staffa, allucinante, se l'ha pigiata proprio. Devo tagliarla, vado una manzana, mi la segno un penarello, si mi lascia un penarello, sì, ti allaccio. La segno bene, la taglio dritta dritta, poi faccio i buchi e la faccio più corta e poi vediamo, ma, cosa fa. Un casino. Io mi ricordo che non la staffa così, non la mettevamo. Io mi ricordo che ci attaccavo il tubo, mi pare, o qualcosa del genere. Non lo faccio attaccarlo, ci vuole proprio quella lì. Ce l'hai mai voluta una male più pesante, ma no, ma neanche. Troppo peso. Ma riflette, cazzo, mi spacca il braccio del... dello stendituio. Non fa neanche, un casino. Sant'antenna in chi è un casino, ma qualsiasi tipo di antenna, qualsiasi tipo, ma non che la metto, se dove, dall'altra parte, la devo mettere dall'altra parte, di cucina, ma no, di camera da letto, bucare il muro, in camera, poi ribucare il muro, entrare in cameretta, ma lo posso mettere anche sopra il coso, sopra il... la scrivania, capito? L'unica è fare così, solo quel capo non mi basta. Oh sì, forse ce ne ho un pezzo più lungo. E metto le staffe lì, metto la piazza lì. Solo che c'è un problema, che se dovessero venire a fare la... perché se la piazza lì esce bene. Siccome stanno passando a fare le facette nuove, è un casino, me la faccio la smontata. Ah scusa, ma su non ci puoi salire. No, ho avuto un problema con quello di su. Cappa, ma io mi ammetto che la cabelluria però puoi salire, non c'è nessuno, non c'è. Lo puoi passare diversamente il capo e si abbia in culo. Il discorso è che la posso mettere, sì, la posso piazzare, non è una posso piazzare. Però il problema è che, come si dice, si piazza un'antenna buona, non piazza un quarto d'onda, un mezzo d'onda, cosa cavolo è. Non fa, capito? Piazza un'antenna a 5 ottave, anche una cosa mi va bene, una riega in master. Ma sta cosa troppo e non andava ci vuole un'antenna meno costosa che... amiche chissà se ci un bel po' criminata la capicciuria mica ha portato la gran plemi bellami quanto costa? 40 euro ma chissà chi chiede a voce mi dà in chime quanto costa? 30 40 euro mai fatti vuoi. E quello non lo posso sapere, no? Chi sa però chi che già voce, te lo dico io. Ho capito, Angio. Siamo sempre lì, capito. Siamo sempre lì, ma hai fatti guai e passo guai. Cappa. No, ti guai non penso. Se tu trovi l'altra età giusta, non bastano punire la vicina della televisione. Se ti vuoi non te ne fate. Ma siamo sempre lì a tu, andiamo, sempre lì la devo piazzare. Sembra che tu su Sabassone, a casa in Chivi, devi piazzare tranquillamente. Dopo si può ancora ragionare, pare un padrone, è purtroppo un casino. Perché se io la piazzavo, la stavo piazzando, facevo passare il cavo lì, non disturbava niente, anzi, andava benissimo, me ne era fatta bugare. Dice che il cavo dava fastidio, capito. Vabbè, meglio... Mica c'era pure tanto il giorno. C'era Claudio. Capito? ci aveva avuto a calentare dopo tu faceva se stesso. Ma non hai più gana, no, tu. E poi nascono i problemi. No, no, non penso. L'ha lasciato perdere e basta. E non la puoi mettere lì dove, per esempio, è che devi stare attento a non fare attaglioso. Non la puoi punire in quel capello che c'è, è che devi stare attento a non scendersi giù. Lì dove è attaccato, lì nel palo attaccato e lì. Mi hai capito dove sto dicendo? Si pare io su Simacu. Se ci sarebbe stata una protezione l'avrei anche messa. Ma se non c'è protezione lì, non su Cumacca, stato in chibino. Già è vero, già, ci vuoi alzare, però devi sapere non farate gli osso. E allora, per chiudo la vita, ma ho mandato nei palacchino, ma anche no. Cazzo, se vogliamo andare a chiudere in TV. Anche se, vabbè, alla fine sta lavorando, ma rischio uguale. Il rischio c'è, Antonio, il rischio c'è, io rischio solo se rischio, devo fare le cose dove si possono fare, al sicuro, lì ma manco no, poi io ci soffro anche di capogiro, in chimi, ma no. Già lo so, già. Vabbè. Ma che cosa bisogna inventare? Non c'è problema. Ha detto che lì sarebbe andata bene. Cioè, perché c'è anche il gradino, cioè, quindi lì si può anche lavorare. Se c'è stata una protezione, volendo. E adesso vediamo. Vediamo cosa fare, là. Stavo chiamando. Sono arrivato poco fa e non ho giugata, orgoglio a zero. Io c'avevo un po' di mal di testa oggi. Cazzo, durante la quarantena ho mal di testa zero. Ho fatto da fasoleo che mi è passato. Però ti stordisce, cazzo, ti stordisce. Mamma mia, e ci soffro come un animale. Già ti capisco. Mamma me lo diceva sempre, che devo uscire con i capelli bagnati, sempre, mi. Non li posso dare torto qua, ci credi? E infatti, adesso mi sto prendendo le conseguenze. Sono sempre andati in capo, mi, sempre, tu, sempre, sempre, devo dire sempre. E non è una cosa bella. Ma lo fa anche quando bevo, magari adesso un bicchiere di birra, due bicchieri di birra. Cazzo, vabbè, non sto bevendo, non me ne frega niente, mi interessa. Cazzo, ma poi la faccia un po' già è scesa. Ma un tipo di birra, allora, se no ti si gonfieggia. Non fa. La birra gonfia un bel e non fa. E fa ingrassare, no? Oltretutto. Poi, se la coppi con la pizza. Adesso vediamo altro, magari anche questo fine settimana, che ci organizziamo. Non lo so, un venerdì anche, boh. Possiamo andare sabato, dipende da, voglio essere la pizza da Bruno. Sì. E adesso questa settimana no, perché questa settimana è un casino, questa settimana la verità. Venire so pochi e non andava bene. All'altra settimana possiamo pensarci. Sì, di là me andrò, anch'io pochi. E vabbè, vediamo un po', tanto non è molto la spesa. Tanto siamo proprio voi, siete in due o in tre. Siete in due o in tre? No, in due siamo, ma vediamo un po'. Sara, come mi stavi dicendo? Sì. Poi cosa deve essere positivo, non ti compreso. Io penso positivo perché sono vivo, Dai adesso, Lulu. Io benissimo. Aspettando anche la risposta del dentista, ancora non mi ha risposto. Cioè mi ha risposto, poi aspetto la conferma, se devo fare il molecolare. Capito? Allora che cosa? Cappa, tu vado, mandi il cellulare, cara. Ah, minchi, mi so bene. Sì, si è fatto. Dove stai, Giudea? Allora, sta aspettando una ragazza per insieme. Che ho un autodivisore. Ma ve l'hai racconto? No. Allora non si può contare. No. Beh, se fate il pane nel CD non si può contare, no. Quello è un po' vecchiotto anche. Oh, anda, te lo va a dicio. Dopo tanto tempo sono ritornato agli origini, cavolo. Questo qua io ricordi che lo utilizzavo sempre lui. Va bene questo qua, sta grande, va benissimo, si è abituato a quello. No, io guarda, credimi a tu, col 2009 trovo benissimo. E l'altro a tu, non c'avevi più, avevi comprato la pomponia. Sì, lo stavo usando poco fa, ma questo è quello che riesco a usare meglio. No, va bene, a voi. Va bene, poi io sono un po' indeciso. Però più in là, adesso no. Vai, me lo comprerò con 60. Io tanto non ce l'avevo, ce l'ho 40. Beh, addio, infatti, quando l'avevo visto quel tipo di ordine, diciamo di rimane in capo. Appunto, adesso va via, tu la macchina. Bisogna venire in tutto il fondato, va via, da ordine farà domenica. Ma gli ho dato l'appuntamento lì a coso, di fronte alla motorizzazione civile. Infatti quando l'ho vista, cazzo, non aspettavo così nuovo, io la tenevo bene, sempre pulita, lucida, ma non c'erano pieno di polvere, niente. Pure io ritengo bene, guarda. Stavo di un filo di polvere, nuda, la ventola, l'avevo smontato, pulito la ventola. Ehi, cappa, si sta facendo una cosa, stavo facendo. Questo me l'avevo messo a posto perché vabbè, è vecchio, l'avevo utilizzato parecchio io, è vecchio, però cavolo, anche questo penso che 10 anni ce li abbia quasi, questo apparecchio qua, ma funziona benissimo qua. Se non un iPhone va giù io su. Cazzo, quanti anni ha quel iPhone? Forse eravamo a 20. Ma chi tu? L'87 mi pare che dell'anno 80. Siamo lì comunque, sono vecchio ma parecchio, ma vanno bene. E adesso vediamo un po' domani se riesco a sistemare l'antenna. Vi porto anche il rosmetro, appresso. Se non ci sono trazionari, la lascio così. E se no, bisogna tararla in studio. No, secondo me non l'ha fatto nulla. Cosa mi sai? Chi lo sa? Cappa, non gli ha fatto niente, non gli ha fatto lui. Mi ha già un modo, cazzo, va. Ma punirla un po' più bene, c'è antenna. Lo so, ma di sistema non ce n'è. Il sistema è come la stiamo piazzando con Claudio, quella l'unico, bello, poco cavo, purtroppo non si può punire. Non si può punire, vabbè, fa un piedi, ma problemi, capito, con quello di su. E tu in mezzo. Vabbè, sono stato in casa mia, così purtroppo non sono in casa mia, se no invece l'avevo piazzata, forse in Malagana, purtroppo sono in casa mia, non ho manco il coso lì, vabbè. Vabbè, sono t'arrangiati, e cosa vuoi fare? Fa di segnale, buono è da te, cioè sempre a fondo scala. Sì, beh, sono vicini a tu. Sì, non è che vadi assai potente, amico. A tu, cazzo, sei forte, no? Non è come da giugno, quando io andate ad oggi, arrivai molto, molto più basso. Allora siamo vicini molto, molto, molto. Poi c'è andata sul tetto anche. Ma basso, tra parentesi, sì. Vabbè, ma no, come adesso, capito? E pure chi vi cazzo di arrivare a bomba? niente, pure lì arriva bomba, ma bomba però là, in quella zona. E qui c'è il fatto che proprio ancora una caffettiera, che cosa la fa? Ah, va cambia da fare un culo. Come? Ma cazzo mai cazzo per un vitro che è nata nel popcorn, ma non ti innate. Che proprio in effetto ne ha già bugato, modificata. Cos'è fatto? È modificata tu. Ah, e no, domani che va a tavane. Ecco, facciamo la proposito. Sa c'è la Juventus, sai quanti ne piglia? Cappa, cosa ne gioco? Ah, in casa sono, Juventus-Sampdoria. Finali, 3-3 sono. Capo, là la torce mi scaldavano un po', qua non scalda niente. Vabbè che le stazionarie non venne in occhi. Scalda il finale. E ci sono stazionarie, capito? Cappa, cappa. Ma come non me l'ha truccata di Sant'Enna? Adesso devo fare il coso nuovo. Vabbè, vediamo la misura aiuta, avrà partito, andavo da piccola me lo comparavo. Ah, non l'ho fatto niente. Vabbè, manco mai che non l'ha pigliato un coico buono, se no l'aveva truccata sì. E la pigia è grossa Sant'Enna, non è sottile sottile. Già vabbè. No, guarda che già rende, non è che non rende. E altro più di così non posso fare. Più di così non posso fare. Cappa cappa, peccato che non vanno in fatto una ringhiera, una cosa, no. Qua in quello spazio che ho detto io, lì andrebbe bene. Lo so, purtroppo. È un casino, si può fare nulla. Io qua non ho problemi. Con Roberto poi, io bucato dove c'ha coso lui anche mi dove sono le staffe dove c'ha la mansarda ha fatto dei buchi pure lui ma qua non ha pizzicato di bisogno di provvigimento dove sono le staffe cioè questo mi aveva fatto la tana in terra. Ah già è fatta bene cos'è da muro a muro e allora no muro a muro ma hai detto tu hai fatto il bucato che è andato le staffe. Sì, ma è che ha bucato dentro il muro a casa sua? A parte in parte il muro. No. Ho bucato 10 centimetri circa. Ma lento una gatta allora. Ci ho intanto al tuo. Sì. Adesso di chi si ciappi a cemento mi pare, così. E allora, c'è andato rapido, chissà come, se non lo ricordo, ma è abbia sta di come. Che ho piano. Con un gatto ne ce ne dice. Forza quasi ma non è la lampi non ti preoccupare ma se le faccio costruire buone belle a Roberto mi compro il materiale a Juventus Sampdoria cappelli cappa ui. Mamma mia sto stomaco che gira addirittura via ci metto la stomaco sotto sopra che mamma mia ma dite tu non hai soffritto no non sto bene io la tavola ti ho pigliata mia a papà di dare la passeggiata e aspetta quando scalda appena domani che pesce più con la bicicletta andà a piedi ando vai cazzo non mi aggiunta a malare ah, beh, certo vogliamo capelli? Certo vabbè comunque chi m'accuso? No, non me ne devo prendere io malattie no se posso evitare evito io a me piace poi scaldarmi molto d'inverno no, il freddo non è mico lo so, non c'è da nessuno lo vorrei. Ma proprio io per esempio come ti va di tu non esco proprio da casa non ha più pressa cioè se sono quei capelli bagnati cura molto già va a piedi vai tu mi asciugo bene i capelli e poi vanno a piedi non idrato io molto al freddo no io purtroppo i fusi però. Quella che ho detto. Infatti con, la, con il coso, con... come si chiama? Con il... la gelatina. Non è molto crescita come, non ti preoccupare, perché io ci tengo molto a... cioè, se io prendo molto freddo sto male, quindi no, lascia perdere. Già io a zero c'è da peggio qualcuno che veniva a prendermi con la macchina e la moto che mi entrata in garage, non ti preoccupare. Sono molto, mai avuto neanche, sì. No. Ma è mai? Cazzo, andiamo su un po' di moto. Vabbè, c'è per cinquantini, no, molto vulgari, no. No. Vabbè, non ci avevo fatto niente, però... sai che un quale mi piace? Liberty, qui il 300, ma da lì giù, cazzo. È molto bella quella moto. Devi controllare se non puoi guidare. Che è fino a 125. No, 300 è bella, cazzo, gira un bel la moto. Gira un bel... gira un bel la moto, cammina un bel, cazzo. Cioè è bella, però bisogna vedere se lo puoi guidare questa moto, perché tu con la tua patente puoi guidare 125-11 kW. Non puoi guidarlo, chiso, se guidi chiso fanno un incidente sono cavoli tuoi. Io non lo posso guidare, no. Ma prendo patentino. Forse se l'ha preso Carletto. La... devi avere, mi pare, la 1 per guidare quello lì. Vabbè. Vediamo questa che siete. Ma mamma non gli voglia nulla, che non ha fatto nulla. Ci ha pagato, però non ha compreso l'alimentazione. Basta fare... una semplice guida, non lo so se è più facile per chi ha la B, se deve fare la guida della moto. Vabbè, prenderò quella che posso, come si dice? Quella tabula segnata, come si dice? La patente giusta per guidare quella moto lì. Io se è più vista della macchina è buono, la carta la moto, io no, a me non mi piace, la verità, mi potrei guidare un cinquantino così, ma non di più, no, la moto, la che muoia, io devo fare arrugato, sapere che culo. Ehi vabbè, d'estate solo, solo, ed esclusivamente d'estate, e buh. Sì, no vabbè, pure io, no, no. D'estate è comoda, vedi, ma d'inverno, a fa un giro così, a farla provare, a caricare la batteria, ma non di più, troppo freddo c'è, cazzo dimmi, guarda che un giorno sono sceso in moto con la latte dolce con un amico mio, e poi cazzo quando sognava freddo non riuscivo a riscaldarmi più, no, lo so, tu hai umiliato un freddo, me hai umiliato un freddo, capa uni amari o piugge. No. Allora non vedrai cacchio, non vedrai nulla tra la faccia. Il babbo va pigliato l'assideramento. Sono con casco, vedo. Oh, sta capo, tutta l'aria. Oh, lascia perdere. Raga, piccino, oioioi. Ah, non è tra 12 minuti la notte. No, sono claudio poco fa e boh. Vabbè, io da giù non posso entrare che non c'è un'antenna. Vabbè, no, dovremmo andare in piazza. Abbiamo fatto un po' la bambera. Come ce l'ha detto? Oh, qual è la chiamata di un'altra? Un momento in più, qual è? Finta, che già lo conosce. Ragazzi, ma da fuori. Finta. Tech 550 Power. Ciao, buon noce. Cavo portato a fare le connessioni del microfono. Come è posto da loro? Cata, l'avevo provato. Non me la ricordo, insomma, che ti dice. Sì. Vediamo se te lo ricordi. Magari Cristo. Ma fatti la connessione. Io mi ricordo del lato, quello grigio. Te lo ricordi adesso? Io mi ricordo, questo no. Mica te l'ho portato Milo. No, tu hai parlato quello grigio. Grigio, non nato grigio. Ah, è pure quello grigio, ma ti ho portato anche quello lì. Non me la ricordo. Chiappa, no, già te l'ho portato già. Ma è bellino, là. No, no, no, no, è cavolo. Avanti, voglio una cosa. Gendino cazzo. Aspetta che mi sta chiamando una persona. Oh Luca. Aspetta un attimo. E cappa, dai, io ti devo. Ti devo lasciare, ci sentiamo. Ehi, ciao, anche buonanotte, domani, ciao. Ciao.